benvenuti a questa nuova puntata della rassegna stampa targata Wombat. Oggi, per forza di cose, parleremo di Macerata, Piacenza e dell'antifascismo che rompe gli argini, come dice InfoOut, come titola InfoOut, delle innumerevoli, delle molte manifestazioni che ci sono state per tutta Italia legate allo spirito antifascismo, antirazzismo e tutto il resto. A seguire approfondimenti vari, dall'internet a situazioni internazionali, locali, fiorentine e chi più ne ha più che ne metta. E eccoci qua. Andiamo. Sì, infatti inizierei da subito con queste ultime giornate di antifascismo. Ha ricordato l'articolo di InfoOut, leggiamolo velocemente, che ricapitola brevemente quelle che sono state le piazze che si sono mosse in questo fine settimana. A Macerata 30.000 manifestanti si riprendono la città una settimana dagli spari di Luca Traini, leghista vicino a Forza Nuova, che hanno ferito 6 giovani. Il progetto di Minniti è sconfitto, così come la creazione di una retorica degli opposti estremismi. Esiste un terreno di antifascismo di massa, non intersecabile con un piano istituzionale, che fa una decisa retromarcia dopo le ultime prese di parola, tutte di convenienza. Alcuni sindacati e associazioni riconfermano l'adesione alla manifestazione, incalzati dalla loro base. Nessun fascismo e nessuna strumentalizzazione della violenza sulle donne. La manifestazione di Macerata lo esprime chiaramente. A Piacenza in migliaia sono scesi in piazza contro l'apertura della sede di Casa Pound, per esprimere la rabbia contro l'attentato neofascista e leghista di Macerata. Blocchi di polizia e carabinieri provavano a fermarli, ma i cordoni venivano sfondati a più riprese. La polizia scappa, la piazza è antifascista, i divieti e le prescrizioni sono stati infranti. A Milano una manifestazione antirazzista, antifascista di 20.000 persone ha protestato in solidarietà ai feriti nell'attentato di Macerata, in contemporanea con la manifestazione delle Marche. La Boldrini, presente in piazza, è stata contestata. A Torino, durante il corteo antifascista, è stato attaccato un presidio di Forza Nuova che manifestava in ricordo delle foibe. L'azione è stata bloccata dalla polizia in via Lozzati. Un manifestante è stato fermato. A Cosenza, al campus di Rende, era stato annunciato, con poche ore di anticipo, lo spostamento di una conferenza stampa di Forza Nuova con la presenza di Roberto Fiore. Un nutrito presidio di antifascisti ha circondato i forzanovisti. Anche a Parigi un presidio in Place de la République solidarizza con i feriti di Macerata. E poi, lo dicevamo prima, tante altre città insomma, in cui abbiamo avuto alcune presenze importanti, Siena, Pistoia, anche Berlino all'estero. Solidarietà da Berlino, infatti, sì. Sì, ricordiamo anche brevemente non solo quello che è successo sto fine settimana, ma anche quello che è successo nella scorsa settimana, dove sia a Pavia abbiamo visto scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nel tentativo di bloccare anche lì una conferenza stampa di Forza Nuova. A Massarosa è stata contestata Casa Pound. Quindi un antifascismo che non si limita ai momenti di piazza, non si limita alle grandi metropoli, le grandi città dove comunque siamo abituati a questo genere di manifestazioni, ma dilaga in maniera diffusa in tutta la penisola italiana. Quindi una grande risposta a un'escalation che una settimana fa faceva molta più paura di quanto può fare ora. Non c'è dubbio, infatti è stata una settimana decisiva, importante da questo punto di vista, e a noi ci piace in questa trasmissione di provare ad approfondire un po' alcuni di questi appuntamenti. Io inizierei magari da Macerata, leggendo quella che era il documento di convocazione insomma della manifestazione, steso dalle realtà di movimento delle Marche, con cui viene ricapitolato quello che era successo nei giorni prima di questa data, di sabato scorso, e in cui viene insomma ribadito quanto è stato fatto da Minniti, dal Partito Democratico, dai vertici di CGIL, ANPI, eccetera, in direzione di una equiparazione fra fascismo e antirazzismo, come dicevamo prima. Leggiamo brevemente il comunicato e iniziamo un attimo da questo per poi spostarci, come dire, nelle altre città. Inizia con una citazione. La citazione è di Minniti, il ministro dell'interno, che dice: «Ringrazio ANPI, CGIL, Libera, ARCI e le altre associazioni per aver rinviato la manifestazione del 10 febbraio, accogliendo l'appello del sindaco di Macerata. Hanno fatto un atto di amore verso la comunità. Mi auguro che anche le altre organizzazioni che hanno fatto richiesta di svolgimento manifestazioni accolgano la richiesta del sindaco. Se risponderanno positivamente sarà dimostrazione di responsabilità da parte loro. Se così non fosse, ci penserà il ministro dell'interno a impedire che si faccia la manifestazione». Queste sono le incredibili e gravissime parole del ministro dell'interno. È opportuno brevemente riepilogare gli accadimenti delle ultime folli ore. Le realtà di movimento delle Marche, nel volgere di poche ore, dopo il gravissimo attentato di sabato, hanno indetto la manifestazione nazionale, che si terrà a Macerata sabato 10 febbraio. Già nel presidio spontaneo tenutosi nel pomeriggio del 4 febbraio, la manifestazione è stata annunciata e messa a disposizione di chiunque condividesse la necessità urgente di scendere in piazza dietro lo slogan, semplice e chiaro, contro ogni fascismo, contro ogni razzismo. Il lancio della manifestazione si è immediatamente diffuso, determinando larghissime adesioni in tutta Italia e persino dall'estero. Nonostante questa larghissima e immediata risposta, la CGIL, per ragioni di posizionamento e opportunismi puramente interni all'organizzazione, non solo ha deciso di non partecipare aderendo all'invito del sindaco ad annullare ogni manifestazione, ma ha anche avviato una gravissima operazione di boicottaggio, facendo circolare la notizia falsa che la manifestazione era stata annullata. Le scelte della CGIL sono state, purtroppo, condivise anche dai vertici di Ampi, Libera e Arci. Nonostante ciò, tanti attivisti di base, sezioni e circoli territoriali di queste organizzazioni hanno espresso la volontà di non abbandonare la piazza di Macerata e di essere, comunque, presenti. In questo contesto, cogliendo l'occasione creata ad hoc dal sindaco di Macerata e dalle organizzazioni non a caso ringraziate da Minniti per la loro collaborazione, si è inserita l'intimidazione del Ministero degli Interni e la scelta tutta politica di vietare la manifestazione. Si tratta di un'evidente sospensione della democrazia nel nostro paese, della brusca materializzazione di un fascismo che nelle strade si esprime con le pistole e nelle istituzioni con l'imposizione autoritaria del silenzio. Il divieto, dopo una tentata strage fascista, di esprimere liberamente e pacificamente la propria indignazione è un atto che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Questo divieto è inaccettabile. L'equiparazione fascismo e antifascismo, razzismo e antirazzismo è inaccettabile. Per questo ribadiamo con fermezza che andremo comunque in piazza, per ripristinare l'agibilità democratica e riaffermare quanto sarà scritto nello striscione di apertura del corteo: movimenti contro ogni fascismo e ogni razzismo. Invitiamo quindi a non farsi intimidire dal clima creato ad arte dal Ministro dell'Interno e a raggiungere Macerata per una grande manifestazione popolare. Non è il tempo di stare a casa, non basta esprimersi sui social, sono in gioco le nostre libertà fondamentali, le realtà di movimento delle Marche. E in effetti l'appello è stato largamente accettato, raccolto, anzi sono state 30.000 le persone che hanno sfilato in corteo in quella piazza e ci sembrava opportuno insomma leggere questo documento anche perché chi si fosse perso qualche passaggio di questa storia si rendesse bene conto di cosa è accaduto in quella data, in quella piazza, col tentativo istituzionale di proibire una legittimissima indignazione a cui è stato risposto con una forza assolutamente incredibile, di cui c'è da andare insomma fieri. Radio Wombat era presente, ha raccolto diversi contributi che nel corso della prossima settimana saranno quella mandati all'interno delle trasmissioni in palinsesto. Potremmo poi passare magari su altre piazze, brevemente questo è stato detto su Macerata, un'altra piazza che comunque anche i media hanno molto seguito e basta una ricerca superficiale su internet o anche bastava accendere il telegiornale per vedere di queste due piazze in particolare, una era Macerata, l'altra era appunto Piacenza. Sì, Piacenza, dove era stato chiamato un corteo contro l'apertura di una nuova sede di Casa Pound proprio in centro storico. Corteo che, anche per come si è visto a livello nazionale, era subito andato incontro a un atteggiamento d'ostilità da parte della questura, che pochi giorni prima della partenza del corteo aveva pensato bene di vietare il percorso che era stato precedentemente approvato. Quindi c'è stato subito un tentativo di allontanare l'antifascismo dalle piazze centrali delle città, di farlo passare in strade dove non fosse ben visibile, dove non fosse in vista, mentre nello stesso momento ai fascisti veniva lasciata l'agibilità di alcune piazze centrali per i propri volantinaggi, per i propri banchetti e per i propri cortei, perché appunto in serata era previsto un corteo di varie realtà neofasciste per commemorare lo strumentalissimo giorno del ricordo. Divieti che però non hanno avuto l'effetto sperato, non hanno intimidito la popolazione piacentina e dell'Emilia-Romagna che ha partecipato in forza al corteo. E uno dei dati che viene proprio all'occhio guardando le foto della piazza di Piacenza è la grossa eterogeneità di quella piazza. perché infatti era possibile trovare nella stessa piazza sia magari militanti di lungo corso che si spendono nelle lotte antifasciste da anni e anni, sia persone che si sono spese a suo tempo nell'antifascismo, quindi molti anziani che magari hanno fatto la resistenza o comunque hanno sentito i racconti della resistenza dalle bocche dei loro fratelli maggiori o dei loro zii, e sia una componente molto giovanile e anche molto giovane, c'erano tanti ragazzi dei licei, delle scuole superiori, e sia una componente operaia che quindi si sta confrontando per la prima volta da quando è arrivata in Italia con questi movimenti fascisti, però è forse la componente che più sulla propria pelle vive questo problema, perché magari è discriminata per il colore della pelle nella società, è discriminata sul posto di lavoro per gli stipendi più bassi che ricevono. E di cui Piacenza è comunque un teatro importante di questa componente operaia, perché è sempre stata molto attiva nelle lotte dei facchini, in particolar modo con il sindacato Sicobas, che infatti era presente in forza su quella piazza. E anche il tentativo dei media che c'è stato cioè bastava aprire un qualunque telegiornale per vedere che l'unico modo in cui veniva parlato di quella piazza era cercando di silenziare totalmente il contenuto di quella manifestazione, ma facendo cadere l'accento solo su quei 2 minuti in cui un celerino inciampa e viene, io mi azzarderei anche a dire giustamente, accarezzato da alcuni manifestanti. Veniva citato a sproposito ovviamente Pasolini, che viene sempre tirato fuori Sempre. quando succedono cose del genere, però c'è la responsabilità di quello che è accaduto anche di questi tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine è da attribuire esclusivamente alla questura, che ha tentato con questa mossa molto scorretta di relegare il corteo in una piazza secondaria, un divieto che il corteo non ha accettato. E con determinazione si è ripreso quello che gli spettava, cioè le piazze centrali di questa città. E questo, secondo me, è una cosa molto importante perché lancia un segnale anche forte a tutte le realtà nazionali, perché dice che il fascismo si può sconfiggere, le forze dell'ordine che difendono i fascisti non sono invincibili, e ancora una volta l'organizzazione di massa popolare ha dimostrato che si può riprendere quello che quotidianamente gli viene tolto. Infatti, un corteo che ha dimostrato che davvero di spinta e di volontà sono state riprese le vie centrali di una città, la libertà di manifestare. E in effetti anche i discorsi che si vedono in giro in queste ore sui social e nei vari commenti a molti articoli sono banalizzazioni incredibili sulla violenza che meriterebbero probabilmente un approfondimento che non può trovare spazio in queste poche ore, ma che sicuramente dovrebbe. Io vorrei solo consigliare al carabiniere che si è fatto male che magari la prossima volta, se tira 2 manganellate in meno e scappa via un po' prima, non gli succederà niente. Un'altra piazza in cui ci sono stati tafferugli per usare, insomma. Sì? No, volevo parlare della piazza di Cosenza, un attimo prima di fermare questo primo blocco e poi mandare brevemente una canzone, che a differenza di queste due, un posto di cui non è arrivato quasi niente sulla stampa nazionale, qualcosa è su quella locale, ed è da qui Cosenza, infatti, che prendiamo questo articolo che brevemente ripercorre i fatti che si sono svolti sabato a Cosenza. Accesa protesta stamattina a Rende. Militanti dei centri sociali, sindacati, eccetera, in massa hanno contestato l'arrivo di Roberto Fiore in città. Il leader di Forza Nuova ha oggi lanciato ufficialmente l'avvio della campagna elettorale in Calabria, alla presenza della candidata alla Camera per il collegio di Cosenza, Carmelina Ignoto. L'incontro ha mobilitato l'ala antifascista cosentina, che ha manifestato con forza il proprio dissenso. Inizialmente la conferenza stampa si sarebbe dovuta tenere all'Hotel Marconi, a 4 miglia da Rende. Il centro commerciale rendese, infatti, è stato dalle 10 del mattino presidiato da un ampio schieramento di forze dell'ordine che ne ha filtrato gli accessi. Presenti circa 200 attivisti antifascisti che, dopo aver appreso dell'improvviso cambio di location dell'incontro, si sono riversati su commenda. Davanti ai cancelli hanno incontrato cori. Ricordando l'agguato dei giorni scorsi compiuto a colpi di pistola contro sei migranti a Macerata da Luca Traini. A lui, leader di Forza Nuova, ha offerto sostegno economico per le spese legali in modo da non farlo sentire solo. E mentre in strada gli antifascisti urlavano: "I fascisti sono fuori legge, ma c'è la polizia che li protegge", nella sala Minerva un tripudio di applausi si è elevato quando il coordinatore regionale del partito, Davide Pirillo, ha nominato Benito Mussolini, elogiandone le politiche di welfare. Presenti all'incontro meno di 30 simpatizzanti, assediati all'interno dell'hotel per oltre 2 ore, finché, scortati dagli agenti della questura di Cosenza, si sono allontanati dall'uscita secondaria dell'albergo. Momenti di tensione sono registrati a seguito del lancio di un uovo in direzione del gruppo di Forza Nuova, che ha reagito imprecando contro i manifestanti, definendoli drogati nigeriani. E ci interessava leggere velocemente quello che era il comunicato della Cosenza antifascista. Un secondo. Eccoci. Questa mattina un insignificante manipolo di fascistelli, al soldo dello stragista Roberto Fiore, sedicente leader della formazione neofascista Forza Nuova, ha provato ad affacciarsi nella nostra città con le sue malsane idee figlie dell'odio, della divisione sociale, del più becero razzismo. Un tentativo patetico, appunto, nulla di più. Annunciata con pochissime ore d'anticipo, senza uno straccio di indicazione sul luogo, la conferenza stampa lanciata da Forza Nuova, dapprima prevista in un hotel a pochissimi metri dall'uscita autostradale di Cosenza Nord, si è poi spostata presso l'hotel San Francesco, sito all'interno del limitrofo comune di Rende. La Cosenza antifascista, già da ieri, aveva lanciato la manifestazione. Oggi in tantissimi hanno raggiunto prima lo svincolo autostradale di Cosenza Nord e poi l'hotel dove gli sparuti forzanovisti si erano asserragliati. Questo repentino cambiamento di location non ci stupisce, rientrando a pieno titolo nel codardo modus operandi di chi, abituato a sopravvivere nelle cloache, è tradizionalmente abituato a nascondersi. Strano, durante una campagna elettorale pubblica. Per oltre 3 ore i camerati sono stati letteralmente assediati, limitandosi a lanciare qualche timida invettiva o qualche sporco saluto romano, opportunamente celati dietro il cortone delle forze dell'ordine. Saranno stati 10 a voler essere generosi e, sinceramente, oltre al tipico disgusto, ci hanno suscitato un sentimento di grande pena. Noi l'antifascismo siamo abituati a praticarlo ogni giorno, all'interno dei nostri territori, nelle case occupate, negli spazi sociali autogestiti, nei quartieri, nelle scuole e le università, sempre a testa alta. Queste sporadiche sortite delle formazioni neofasciste, votate a raccogliere un improbabile consenso nel nostro territorio, sono le note a piè di pagina di un capitolo di un libro che qui, nell'area urbana di Cosenza, non sarà mai scritto. Ci rendiamo conto, tuttavia, che deliranti formazioni politiche del genere stanno provando a seminare odio in tutto il nostro paese, partorendo attentati come quello di Macerata. Ed è per questo che oggi, infatti, con i corpi siamo stati qui a Cosenza, ma con il pensiero, assieme ai moltissimi compagni scesi in piazza a Macerata. Oggi avete giocato a nascondino, l'ennesima dimostrazione che Cosenza non potrà accettare qualsiasi tipo di iniziativa fascista da formazioni neofasciste. Firmato la Cosenza antifascista, infatti. Quindi è un bellissimo filo rosso che unisce l'Italia veramente da un capo all'altro. E magari a parte ricordiamo anche le bellissime comunque piazze di Milano e di Torino. A Torino c'è stato anche un arresto da parte della polizia di un manifestante di lungo corso che ha difeso. Si è esposto in prima fila fino all'ultimo per difendere il corteo da una carica della polizia ed è stato arrestato. A lui comunque esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Certo. L'unica considerazione che mi sento di fare è che se c'è un velo che queste settimane hanno fatto cadere è proprio l'antifascismo di facciata dei partiti istituzionali di sinistra, che appunto sono interessati semplicemente a far rimanere l'antifascismo esclusivamente come momento elettorale, cioè l'antifascismo deve rimanere una cosa solo elettorale. Quando ci sono momenti di piazza grossi vengono sempre sconfessati da questi partiti che, anzi, essendo partiti che attualmente sono al governo, provano anche a limitare l'agibilità di queste piazze e a proibirle. E quindi un attacco ai fascismi in questo momento è anche un attacco al PD, è un attacco al governo che vuole provare a riassorbire questa forte spinta popolare, questo forte rifiuto popolare esclusivamente per i suoi biechi interessi. Giustissimo, infatti aggiungiamo che questo si vede anche a livello locale, come ricordavamo prima, su come si è posto la questura in generale, insomma, il comune nei confronti della manifestazione in opposizione a Salvini, e nel frattempo i movimenti di facciata per cui il sindaco Nardella intitola al gappista Elio Chianesi il giardino degli orti dipinti, con la sfilata delle dirigenze dell'ANPI, articoli in pompa magna, oppure al comandante potente partigiano il largo sopra la pescaglia di Santa Rosa, due movimenti di chiara propaganda a cui poi non viene fatto conseguire nessun antifascismo reale, ma appunto sono becera facciata. E se c'è stato un merito sicuro di questi ultimi giorni è stato quello di aver disvelato davvero definitivamente, di fronte a chi proprio non voleva vedere, quanto questo insomma è lampante. Magari la smettiamo noi di chiacchierare, che la stiamo facendo un po' troppo lunga, mandiamo una canzone, alleggeriamo e torniamo. Assolutamente. E torniamo fra poco. Comunque ribadiamo che è importante appunto parlare di queste manifestazioni, perché è la risposta del paese che non sottovaluta il problema del fascismo, come dice Zero Calcare, non è una partita a bocce, appunto. E quindi andare in piazza in questi momenti per ribadire l'antifascismo è fondamentale. Cioè. E quindi chiudiamo, appunto, non è una partita a bocce, Antifa 2.0, 99 posse. Io. Sulle mani, sulle mani, antifa, no ma su un passo atrás. Alza sulle mani. Eccoci qua tornati. Adesso una parentesi, diciamo, internazionale. Sempre da InfoAut, un articolo del 9 febbraio, che parla della Grecia. Si intitola Lo spettro del nazionalismo aleggia sulla Grecia. Presentiamo qui un resoconto di un compagno di Alpha Kappa, rete di realtà anti-autoritarie greche, che sintetizza gli ultimissimi eventi intercorsi nel paese ellenico attorno alle retoriche nazionaliste sulla denominazione geografica della vicina Macedonia e dagli attacchi dagli spazi autogestiti. Nelle ultimissime settimane è esploso in Grecia un dibattito molto acceso rispetto al nome del vicino paese della Macedonia, in precedenza noto come Fyrom. Questo dibattito è rigirato oltre misura su una maggioranza di media greci e tra partiti politici e formazioni conservatrici. Anche la premessa di questo dibattito è semplice. La Fyrom desidera essere ribattezzata in qualcosa che includa il termine Macedonia affinché possa unirsi alla coalizione NATO, il che è a propria volta qualcosa che alimenta le forze conservatrici di estrema destra e fasciste in Grecia, perché, per come la vedono loro, qualsiasi rivendicazione sul nome Macedonia, avanzata da altri che la Grecia, vale come un furto della nostra ambita storia nazionale e del nostro patrimonio. Questo dibattito si è protratto fino a diventare una forza crescente nei circoli nazionalisti, a tal punto da dar loro abbastanza spazio per organizzare manifestazioni e raduni a Tessalonica e ad Atene. A Tessalonica abbiamo contato quasi 200.000 manifestanti con bandiere greche e che intonavano l'inno nazionale greco. Tra di loro vi erano ovviamente diverse formazioni neonaziste e neofasciste greche con diversi legami ai gruppi fascisti internazionali come Casa Pound, Comunità Militante Radio, eccetera, eccetera. Ed ovviamente la squadra dei parlamentari di Alba Dorata, al gran completo, è stata vista con un benvenuto più che caloroso da parte della folla. Il giorno del loro raduno a Tessalonica è stato deciso che alcuni gruppi anarchici, antiautoritari ed autonomi organizzassero una contromanifestazione per opporsi a questo calendario nazionalista. Una decisione coraggiosa, considerati i loro numeri ed il sentimento generale in questi giorni, più o meno in loro favore. Anche così, la contromanifestazione è riuscita a radunare una serie di persone, più del previsto, ma ancora lontane dalla quota di 200.000 dei nazionalisti. Durante le ore delle manifestazioni ci siamo trovati sotto attacco di accozzaglie fasciste e nazionaliste, organizzate comprendenti hooligan, serbi, nazionalisti, fascisti organizzati ed ogni sorta di creature infette del genere in quattro diversi momenti. Due squad sono stati attaccati in presenza della polizia, che fondamentalmente ha permesso agli attacchi di avere luogo. Lo squad S. Xoleio, scuola, è stato in grado di respingere l'accozzaglia assaltatrice, mentre Libertatia, scusate, il secondo squat attaccato non è stata così fortunata ed è bruciata fino alle fondamenta. L'ultimo fallito attacco è stato nel luogo dove la nostra protesta antinazionalista si stava svolgendo. Un simile raduno nazionalista si è svolto ad Atene la settimana successiva, partecipato da molte meno persone ed ovviamente accolto da una contromanifestazione molto poderosa organizzata da molte forze antifasciste. Piani simili a Tessalonica, con attacchi agli squat e agli spazi sociali, sono stati tentati ma sono falliti grazie al movimento antifascista. Sebbene queste ultime settimane ci abbiano lasciato con un sapore agrodolce in bocca, pensiamo se non possono tirare le somme. Vabbè. In primo luogo il veleno nazionalista che sta Cos'è? Se ne avvenendo. possano tirare le Se ne somme. possono, esatto, Ah, ok. ero ribattito. Sorry. In primo luogo il veleno nazionalista che sta venendo diffuso nelle società deve essere accolto con forza rapida e distruttiva, prima che divenga qualcosa che sfugga veramente al controllo. Ciò significa che dobbiamo opporci adesso apertamente, organizzandoci con i nostri gruppi ed i nostri alleati in qualsiasi occasione abbiamo. Lasciarli apertamente popolare le strade ed avvelenare le menti della gente non è un'opzione. Una contromanifestazione di massa e, se necessario, militante, è qualcosa che deve accadere ogni volta che annunciano un raduno. In secondo luogo, dobbiamo usare i nostri strumenti politici e critici per provare a isolare la propaganda nazionalista in ogni stanza del dibattito politico e pubblico. E in terzo e più importante luogo dobbiamo finalmente frantumare la tela di bugie che crea gli stati etnici e nutre il patriottismo ed il nazionalismo. E dobbiamo renderci conto che l'idea di una nazione coerente non serve altri che la classe dominante e lo Stato. Firmato Kostas Savvopoulos. Fine qua del pezzo. Insomma, non è, decisamente non è solo una questione italiana, direi, l'ondata di fascismo. Che si sparge un po' ovunque e che dà voce a chi spesso forse non dovrebbe neanche avere la voce, nel senso che spesso viene detta la solita frase, no, del E vabbè, ma voi manifestate contro persone che democraticamente dicono il loro pensiero. Beh, non è che, non è così che funziona, sinceramente. Non è questo il punto logico. Per rimanere sugli esteri, per rimanere sull'antirazzismo, sì, lo so che oggi siamo monotematici, ma come diceva qualcuno, ci piacerebbe parlare di altro, ci piacerebbe parlare della partita di pallone magari, ma sono tempi bui, quindi dobbiamo parlare di fascismo. E, andiamo in America, dove purtroppo ci giunge una notizia triste, perché martedì mattina è stato assassinato a New Orleans un noto militante di Black Lives Matter e il movimento che da anni ormai combatte la discriminazione razziale negli Stati Uniti. Ancora la polizia afferma di non avere piste investigative, quindi non possiamo affermare che sia stato qualcuno piuttosto che qualcun altro. Certo è che si aggiunge alla lunga striscia di sangue che viene seminata specialmente in America verso militanti in vista del movimento di emancipazione dei neri. E basti ricordare anche casi molto più celebri come Martin Luther King o George Jackson. Il militante si chiamava Muhyiddin Mohyeh, detto Dba, spero di averlo pronunciato bene, che da anni era protagonista delle proteste del movimento, noto soprattutto per le manifestazioni al fianco della famiglia di Walter Scott, ragazzo nero disarmato ucciso dalla polizia di Charleston nell'aprile 2015. E era noto soprattutto per aver strappato una bandiera confederale durante una manifestazione dei suprematisti bianchi, atto che gli era costato l'arresto, ma anche una forte attenzione mediatica che gli aveva consentito di lanciare sui media il suo messaggio contro la disuguaglianza razziale negli Stati Uniti. E riportiamo una sua dichiarazione dell'epoca quando aveva detto: "L'ho fatto per far capire a quei soggetti che cosa significa incontrare una vera resistenza, cosa vuol dire incontrare persone che non hanno paura." Dba non aveva paura e comunque vogliamo mandare un abbraccio ai suoi cari, ai suoi compagni che sicuramente sentiranno la sua mancanza nei tempi a venire, ma anche un invito a non scoraggiarsi e a continuare la loro lotta. Certo, io già che siamo sugli esteri, Vada, vada. volevo aggiungere una notizia che non sto ritrovando nei dettagli, ma la cito perché l'ho letta recentemente. È uscito il rapporto Milex sulle spese militari per l'Italia del Ok. 2018, che a proposito, insomma, di guerre e tempi bui ha stanziato 25 miliardi in più rispetto allo scorso anno, 25 miliardi di euro in più per le spese militari, in un trend che è di costante crescita e è abbastanza agghiacciante. Ora io i dati precisi sotto non ce li ho, però ci sono forti spese per le missioni estere che sono in cui l'Italia è impegnata, nonostante poi c'è il Si solito venga a articolo 11 della dire Costituzione, esatto. no? Su cui che comunque poi Costituzione, Il vabbè. ministro della difesa che ci difende da Che ci difende? Che ci difende dai nigeriani, e infatti andiamo a colonizzarli in Niger, e grazie alle nostre operazioni neocoloniali, come quelle che stiamo facendo in Niger, o a quelle di guerra, che ne so, Iraq, Afghanistan, dove siamo da tanti anni, stiamo spendendo un sacco di soldi per portare guerra e stare all'interno, fra l'altro, della NATO, all'interno della NATO, dove, a cui garantiamo, fra l'altro, appoggio anche militare col nostro paese. Ricordiamo giusto così en passant che abbiamo 100 basi americane su suolo italiano, che due di queste sono anche dotate di bombe atomiche. Abbiamo bombe atomiche in Italia, bombe atomiche poi sono armi di, come si dice, di primo colpo, insomma, quelle che sono destinate a un uso immediato, non sono armi difensive, armi da assemblare, e noi questo abbiamo. Una spesa che sale di 25 miliardi e operazioni in giro per il mondo dei nostri soldati, che certo non vanno

e smettendo di combattere il governo. Come era presumibile, come era prevedibile, questo ha lasciato un grosso vuoto di potere, che prima era occupato appunto dai guerriglieri, che comunque si occupavano di difendere tutte le zone, soprattutto di campagna, legate all'agricoltura, piccoli agricoltori, e che ora è stato, in assenza del governo, che continua a non esserci, è stato preso, questo vuoto di potere è stato riempito dalle organizzazioni criminali, perché comunque ricordiamo che su quelle montagne c'erano e ci sono tuttora grandi piantagioni di cocaina, e quindi, non essendoci più i guerriglieri ad avere voce all'interno di questi territori, spadroneggiano i narcotrafficanti. Sull'Internazionale di questa settimana un articolo di Rodrigo Pedros, vittima della pace, si intitola, racconta proprio questa vicenda dal punto di vista di un attivista per i diritti e per la libertà di azione degli agricoltori locali, Fernando Ospina, un 46 anni, che è dovuto fuggire perché ha ricevuto minacce di morte da parte dei narcotrafficanti, perché non si piegava alle volontà di quest'ultimi. Il governo gli ha consegnato, per difenderlo, un giubbotto antiproiettili, un cellulare e 25 pesos al mese, soldi che poi non arrivano. Dopo l'ennesima telefonata di minaccia di morte e vari altri momenti di tensione vissuti da questo attivista, chiamato tra l'altro il legno perché è uno di quelli è solido, è dovuto scappare e ora vive in povertà senza trovare lavoro nelle grandi città. Questa situazione era prevedibile e già si sapeva che lo Stato non avrebbe difeso né sarebbe entrato all'interno appunto del ripristino, diciamo, della democrazia all'interno appunto delle campagne colombiane dal momento in cui i guerriglieri se ne sono andati. Sono aumentati quindi le uccisioni degli attivisti. Nel 2017 sono stati uccisi 105 attivisti per la difesa, quasi uno ogni 3 giorni. Non solo, il governo non solo manca, ma sappiamo che vende interi territori e montagne a aziende private, espropriandole ai contadini. Quindi i guerriglieri della FARC se ne sono andati per forza di cose, ma purtroppo la situazione non è migliorata, ma anzi è peggiorata. Chissà se poi non dovranno tornare a combattere, proprio perché c'è un'assenza di difesa, di assenza dello Stato, un'assenza di legalità, un'assenza di ogni cosa, e chi ce ne rimette sono sempre e soltanto gli agricoltori, i poveri della Colombia. Niente, quindi potete trovare sull'Internazionale di questa settimana questo articolo. Non c'è dunque alternativa al contropotere popolare, soprattutto. Sembrerebbe, vero? In questi stati del mondo. È evidente che lo Stato in questo caso ha fallito. Ok, ci spostiamo. Ci spostiamo, chi va? Vado io? Sì. Vado io, allora. Mercoledì scorso è morto John Perry Barlow. Chi cazzo è? Non lo so. Invece è un personaggio molto importante, è un... Vabbè, leggo un piccolo estratto di un articolo uscito, preso a caso dalla rete, uscito su Motherboard, che fa così. Noi creeremo nel cyberspazio una civiltà della mente. Possa essa essere più umana e giusta di quel mondo che i vostri governi hanno costruito finora. Si apre così questa mattina al sito della Electronic Frontier Foundation, EFF, annunciando la morte del suo cofondatore e di uno degli esseri umani che più ha dato alla rete e alle battaglie per la sua difesa. Barlow, che tra un giro nel cyberspazio è tra l'altro lo scrittore dei testi dei Grateful Dead, è stato e continuerà ad essere un baluardo dei valori fondativi di Internet. Oltre al suo lavoro attivo con la EFF e altre organizzazioni, era anche fellow del Berkman Klein Center for Internet and Society di Harvard e cofondatore della Freedom of the Press Foundation, che finanzia diversi progetti e software per la sicurezza informatica nel giornalismo. Barlow va ricordato in particolare per la sua Declaration of the Independence of Cyberspace, un testo scritto e fatto circolare online del 96, che fra l'altro aggiungo un testo molto importante e fondante fra tutti i vari manifesti sul potere dell'internet del fine anni 90, insomma, che sono stati pubblicati in quegli anni lì, che sono tutti molto caratterizzati da un grande ottimismo, che ora a questo punto può sembrare anche quasi un po' naif, visto come poi è andata tutta la faccenda, ma che sono un po' quelle utopie al quali tendere. Lui stesso ha detto poi nel 2016 che non rinnega assolutamente quello che ha detto, anche se effettivamente era marcata da una grossa fiducia nell'infrastruttura di internet, nel come non potesse essere centralizzabile. E vi consiglio di andarvela a leggere, non ve la leggo perché è un po' lunga, è molto bella e molto interessante. Continuo la lettura di questo articolo, però. Questo testo è una colonna portante della storia di internet e delinea un'idea senza frontiere della rete, che viene da lui vista come naturalmente non controllabile da governi o da altri grandi attori e destinata a creare un mondo indipendente, dove tutti possono entrare, senza privilegi o pregiudizi basati sulla razza, sul potere economico, sulla forza militare o sul luogo di nascita. Certamente si trattava di un'utopia al tempo, come lo è oggi, ma nel 2016 Barlow, intervistato da Wired, aveva difeso l'attualità delle sue visioni, sostenendo che il cyberspazio, sì, dipende dal mondo fisico e non può esistere senza di esso, ma in larga misura è una cosa diversa e senza precedenti nella storia del mondo, spiegava. È molto semplice, qui le vecchie istituzioni non hanno alcuna giurisdizione, concludeva Barlow commentando il suo testo risalente a 20 anni prima, e in cui chiedeva, in nome del futuro, a voi del passato, di farsi da parte e lasciarci in pace. Ciò che c'è di certo è che l'internet di oggi non ha l'aspetto che aveva ipotizzato Barlow. La rete di oggi non corrisponde ad un mondo più umano ed equo di quello che i governi hanno contribuito a creare, e quasi tutto è andato storto. Internet oggi è nelle mani di pochi attori economici che stanno progressivamente, e questo è molto importante perché spesso non vi è dato il giusto peso, stanno diventando la sua stessa infrastruttura, accentrando sempre più potere. Inoltre i governi hanno reclamato un'autorità geopolitica anche sui confini del web e la rete, che avrebbe dovuto essere uno strumento di sola liberazione. Ha dimostrato di poter essere sfruttata per opprimere, controllare e sorvegliare intere società. Negli Stati Uniti la net neutrality è stata cancellata sotto la spinta delle lobby e sempre più voci parlano della possibile fine di internet. Anche qui è curiosissimo, quando un mese fa, poco tempo fa, c'è stata la votazione contro la net neutrality, che c'è stata anche una campagna grossa. Era molto curioso perché al fianco di tutti quelli che sono attivisti veri, duri e puri, c'erano le grandi... c'erano Google, Facebook, che si battevano sotto la bandiera della net neutrality. È un fatto molto curioso e non vanno... perché un grosso pericolo è chi ancora ci credesse a queste cazzate, è associare questi grandi nuovi monopoli economici a una lotta per i diritti civili e cose del genere, perché è un grosso errore. Cioè, l'unico motivo per cui questi grossi holding, Facebook, Google, Amazon, si erano scaricati da questa parte qui, è che per loro sarebbe stato più un problema, perché una volta passata questa cosa del net neutrality avrebbero dovuto pagare più tasse, semplicemente. Quindi, al che dicano, non c'è nessun tipo progressismo, nessun tipo di apertura verso i bisogni sociali reali di queste holding qua. Cioè, sono veramente la cosa più marcia ci siano, quindi attenti, insomma. Certo, come la risposta di non aprire le backdoor, comunque deriva dalla stessa volontà. Sì, esatto, c'è sempre una controlettura, nel senso, sì, è vero, cioè, loro rispondono che no, per la privacy neanche all'FBI darebbero accesso a cosa che fra l'altro fanno, però. Esatto. Che non darebbero l'accesso a contenuti di privati cittadini, insomma. Però è un meccanismo che fa comodo a loro per ben altri motivi. Cioè, fanno ridere anche tipo come si chiama? Chuan Zuckerberg, che è l'associazione filantropica fondata da Zuckerberg e moglie, cioè il nome della, insomma, i loro due cognomi, che è assurdo perché Facebook, essendo il detentore del più grosso database di data sulle abitudini, da abitudini alimentari quotidiane, esatto, sociali, fondamentalmente tramite questa associazione filantropica, fondamentalmente fanno degli studi usando dei dati regalati dagli utenti, esatto, per poi rivenderli agli stati e ai ricercatori e alle università. Quindi è proprio un giochino, veramente uno dei giochini più marci che esiste. Esatto, vi ricordiamo che qualsiasi cosa, qualsiasi foto postiate su Facebook diventa di proprietà. Di proprietà, sì, sì. C'è un'app, ora non mi ricordo come si chiama, però è molto figa. Ora farò sapere come si chiama, non me lo ricordo. Che praticamente ti dice, in base a quanto usi Google, quanto usi Facebook, quanto usi social network e così, ti dice quanto guadagnano quelle aziende sul tuo lavoro e quanto dovresti essere stato pagato per il tuo lavoro. Comprensorio anche tipo, non so, tipo ti dice, oggi la tua giornata di lavoro per Google è stata dalle 9 di mattina alle 9 e mezzo di sera, tipo una roba del genere. È molto carina, anche perché rende subito mettendoti le mani in tasca, fondamentalmente, è il metodo, il re dei metodi per porre le questioni alle persone. Sì, seguendo il principio che terrei sempre presente, quando ti danno una cosa gratis, esatto, è probabilmente perché la merce sei tu. Esatto, questo è un mantra da tenere sempre ben preciso. Non dico che nessuno debba usare Google, invece sì, lo sto dicendo, però vabbè. Cioè, tenere presente appunto questa questione che dicevi te, cioè se è gratis vuol dire che sei tu la merce. Certo. Non è che ti regalano le cose. E l'evidenza infatti è questo contatore che riesce addirittura da una stima a di quanto dirti... profitto riesce a fare sulla tua volontà magari di informazione o socialità. Vaffanculo. E concludo un attimino la lettura di questo articolo, che è un altro paragrafo e basta. Ciao, Canifi, scusa. Riparto dall'ultima frase. Negli Stati Uniti la net neutrality è stata cancellata sotto la spinta delle lobby e sempre più voci parlano della possibile fine di internet. Eppure quell'idea del manifesto, che può sembrare naif, sgangherata, narcoide, fantascientifica, fricchettona, hippie, antistorica, era un'utopia. Non era un manuale con delle istruzioni da seguire, ma un assoluto a cui puntare per concretizzare quante più soluzioni possibili e problemi reali. Proprio a questa corsa verso l'utopia e non alle visioni deterministe o alle sparate vuote sui paradisi dell'innovazione, Barlow ha dedicato la sua vita politica con le battaglie della EFF prima e con quelle della Freedom of the Press Foundation poi. Non è un'esagerazione sostenere che parti importanti dell'internet che conosciamo e amiamo esistono e fioriscono a causa della visione di Barlow e della sua leadership, scrive la EFF nel suo necrologio, riportando una citazione perfetta per capire il pensiero di John Perry Barlow. Sapevo che è un buon modo per inventare il futuro e prevederlo, per questo ho predetto l'utopia, sperando di dare alla libertà la spinta di partenza prima che le leggi di Moore e di Metcalfe ci consegnassero quello che Edward Snowden ha giustamente chiamato totalitarismo chiave in mano. John Perry Barlow ha rappresentato l'utopia di chi è cresciuto con internet e ha espanso il nostro senso del possibile. John Perry Barlow è morto e ora è tempo di inventare quel futuro o qualcosa che gli somigli, e in suo nome, voi del passato, almeno oggi, lasciateci in pace. Fine. Mi ricollego al tuo discorso di appunto della mercificazione delle informazioni che noi diamo spontaneamente su internet, perché è uno strumento che verrà utilizzato a breve per la creazione di modelli di donne robot per l'uso sessuale, che è una delle frontiere che stanno affrontando. C'è una cosa che non ci mancano noi sono i collegamenti. No, nulla. Ci manca così po'. Pa, pa, pa, pa, pa. Un articolo apparso sul Die Zeit tedesco che racconta appunto di questa antropologa Kathleen Richardson, americana, che peraltro comunista, che attenzione alle interferenze, non ci possiamo fare niente, vi chiediamo scusa. Che appunto sta intraprendendo questa battaglia contro i sex toy robot. All'inizio del 2018, quindi da poco, sono arrivati sul mercato i primi modelli, che costano sui $15,000. Sono prodotti dall'azienda californiana Abyss, leader nel settore delle bambole silicone, perché sono bambole in silicone. Cioè, l'evoluzione. E appunto vi dicevo il collegamento perché queste bambole dovranno essere in grado, hanno un'intelligenza artificiale per reagire alle azioni di una persona e ricordare le proprie preferenze, legandosi anche ai social network probabilmente. E quindi tutte le informazioni, le cose, no? Il mi piace che tu metti su Facebook, poi la bambola li registra e quindi è capace anche di reagire in questo senso, anche se poi i primi modelli sono legati chiaramente alle proprie fantasie sessuali e non altro. Però appunto queste bambole si aprono poi al mercato della vendita, insomma appunto a tutta questa questione delle informazioni, le nostre personali informazioni poi usate come merce da queste multinazionali. Questa antropologa appunto sta portando avanti questa lotta perché appunto secondo lei, a differenza di vibratori che sono comunque dei sex toy ma che sono stimolatori, queste bambole poi si sovrappongono alla figura della donna, danneggiando appunto la figura della donna stessa, poiché appunto diventa davvero un oggetto, un puro oggetto sessuale, adibito soltanto alla penetrazione di qualsiasi tipo. Quindi il discorso è aperto, questa lotta femminista è in auge. Il dibattito chiaramente ne possiamo discutere approfonditamente, però è importante insomma sapere anche questo fronte, anche perché poi dopo si ripercuote appunto sulla società e soprattutto sulla componente maschile, ma sicuramente anche quella femminile non ne rimane. Infatti, ora, senza nulla togliere, mi sembra possa essere da due parti una battaglia da intraprendere, voglio dire, come sminuisce. Certo, comunque è un dibattito aperto. Quindi Die Zeit, il giornale tedesco, Katrin Richardson, l'antropologa, che parla di questo fenomeno. Allora, abbiamo seminato, appunto, abbiamo dato un po' di semi per per stare attenti a livello informatico, come sempre, e quindi passiamo ai The Roots con The Seed. And I Eccoci di nuovo, siamo quasi in chiusura, gli ultimi 8 minuti, per non rubare fra l'altro tempo le trasmissioni che seguiranno. Una breve notizia per ritornare dal mondo qui a Firenze, e è legata a Condotte S.p.A. che sta fallendo. Condotte S.p.A., per chi non lo sapesse, è quella che si sta occupando dello scavo del tunnel TAV, del progetto del tunnel TAV. Il comitato No Tunnel TAV di Firenze ha in questa settimana diramato questo comunicato, per il quale è stato insomma consultati alcune fonti di stampa siciliane che hanno fatto presente come appunto Condotte S.p.A. sia in corso di fallimento e che come grazie proprio allo scavo TAV di Firenze si riesca a mantenere su, ma comunque leggiamolo che spiega meglio di quanto so fare io. Il comitato No Tunnel TAV di Firenze legge sui giornali siciliani che Condotte d'Acqua S.p.A., la società che è la general contractor dell'esecuzione del sottoattraversamento TAV, viene estromessa dalla realizzazione dell'autostrada Rosolini-Modica perché incapace di portare avanti l'opera, viste le sue condizioni di azienda in fallimento. È inquietante anche constatare che i creditori di Condotte, le piccole aziende subappaltanti e i fornitori, stiano rischiando il fallimento e mettendo in pericolo molte centinaia di posti di lavoro. Qualche settimana fa, ad un'interrogazione del sindaco sulle condizioni economiche di Condotte e sulla sua capacità di portare avanti l'opera, fu ipocritamente risposto dal direttore generale Giacomo Parenti che non se ne sapeva nulla. Strano, perché l'ingegner Parenti frequenta i salotti buoni della città, quei salotti dove si sa che i lavori per realizzare i tunnel fiorentini servono solo a salvare Condotte S.p.A. Adesso il comitato si chiede come si possa ancora accettare questo vergognoso silenzio della politica nazionale, regionale e cittadina, lasciando in mano ad una società decotta la realizzazione di un'opera dai rischi così gravi. Già nei giorni scorsi il comitato aveva denunciato che lo stesso costruttore ammetteva, nella relazione al bilancio 2016, che le coperture assicurative sarebbero insufficienti per i danni che potrebbero essere causati agli edifici cittadini a seguito dello scavo delle gallerie. Anche a questa denuncia è seguito un indecoroso silenzio, nemmeno una smentita, solo silenzio. «Avanti così», dichiara il comitato. Continueremo a sprofondare nel ridicolo di costruire una linea ferroviaria solo per avere una fermata di bus necessaria esclusivamente a salvare un'impresa decotta. Chi fino ad ora, sindaci e partiti, ha sostenuto quest'opera folle con l'argomento dei posti di lavoro, dovrebbe alzare la voce adesso difendendo i lavoratori che perdono il lavoro. Se si fosse gettato alle ortiche questo progetto sbagliato, si sarebbe potuto realizzare opere utili ai trasporti toscani, creando, fra l'altro, molti più posti di lavoro. Invece si è proseguito solo per finanziare l'impresa gestita da Franco Bassanini e Duccio Astaldi, alla faccia dei lavoratori e dei cittadini, che pagheranno, come sempre, il conto. E per andare a vedere la notizia a cui ci si rifà legata alla linea autostradale Rosolini-Modica, si può andare su siracusanews.it cercando tratta autostradale Rosolini-Modica e lì ci sono tutte le informazioni del caso sullo stato anche finanziario di Condotte S.p.A. da cui si origina questo ennesimo comunicato del Comitato No Tunnel TAV di Firenze, che rilanciamo e che certo non sarà l'ultimo, e noi come Wombat continueremo a dare coperture e a seguire quanto sta avvenendo anche in questo senso. Forse queste ditte hanno preso troppo seriamente la massima di Keynes per cui bisogna pagare le persone solo per riempire, cioè per scavare buche e poi riempirle. Letteralmente, l'hanno presa letteralmente, a quanto pare. Vabbè, noi invece ci lasciamo ricordando che questo fine settimana, sabato, a Roma ci sarà un corteo per dimostrare la solidarietà popolare alla rivoluzione curda che è ancora sotto attacco. Afrin resiste dal 20 gennaio, quindi è quasi un mese, sono 20 giorni di resistenza. E il 17 febbraio a Roma, alle 2 da Piazza della Repubblica, partirà questa manifestazione di solidarietà. Per chi volesse andare da Firenze, ricordiamo che c'è un pullman organizzato da Iniziativa Antagonista Metropolitana e CSA Next Emerson. Se siete interessati, vi invitiamo a contattare queste due realtà su Facebook oppure via mail. Vi ricordiamo anche il nostro palinsesto per chi volesse continuare a intrattenersi e a acculturarsi in compagnia di Radio Wombat. Ora, quindi all'1:30, ci sarà Senza Frontiere, programma di approfondimento politico internazionale, quindi con uno sguardo privilegiato verso quello che succede fuori dall'Italia. Alle 2:30 invece torniamo in Italia per Passaggi a Nord-Ovest, che è il programma con focus sulla parte nord-ovest della città. Invece alle 4:30 sono i nostri simpaticissimi amici di Fuoco alle Polveri, che vi invito che abbasseranno il livello culturale della giornata però magari aumenteranno il nostro buon umore, ci contiamo. E invece stasera alle 9, visto che anche oggi abbiamo parlato un sacco di internet, di tecnologia, c'è Coccoli al Silicio, che è il nostro programma di approfondimento tecnologico. E noi invece ci vediamo lunedì prossimo. Sperando che in questa settimana succedano cose belle invece che cose brutte, in modo da non dover sempre essere depressi a fare questa trasmissione. Stay Wombat. Stay Wombat. Wombat.